Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso, è stato il vino. Se ho fatto a pugni con quel tipo. Mentre ti parlo tu non mi puoi rispondere. Le mani contro il finestrino, le scambio per il paradiso. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il cielo nero di Berlino, sei quella che mi tiene vivo. Pensavo di essere solo e penso che sia mia la colpa. Volevo solo una seconda possibilità di incontrarti per la prima volta. L'amore è questo. Io che ti ferisco, tu che rimani lo stesso. È soltanto una parola che non vale niente, fino a quando qualcuno arriva a darle un senso. Convinti di essere uguali, siamo diversi ma complementari. Io vivo il momento, tu pensi al domani. Noi così vicini anche se da lontani. Ho bisogno di te, non sono più me. Tu mi togli il respiro, vivi dentro ogni frase che scrivo. Ah, tu sei l'unica cosa bella che mi rimane in questo mondo che fa schifo. Io non so chi sono e ci convivo. Scappavo da tutto e da tutti, ma senza un motivo. Ma col tempo ho capito, sei la cosa che mi serve per farmi sentire vivo. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il cielo nero di Berlino, sei quella che mi tiene vivo. Senza te la mia gelida. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere. Se il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo. Mentre ti guardo tu.